senza aspettarla. Non ci si parla, né tantomeno perdersi a guardarla. E la speranza che di milioni o altro, non sto a cercarla nei meandri della piazza. E si riparla forse fra qualche anno, un giorno su un quotidiano col mio ritratto. E la notizia bomba di quello che ho fatto. E nella strada un artista viene ammazzato. Una pallottola per fuori il mio cranio. Mai più in qualche mondo io vado lontano. Laggiù non ci torno, i miei li voglio bene, ma non posso sperare ancora sul fondo di un bicchiere. Io voglio vivermela libera, dove certe cose non le senti più. E tu speri ancora di trovare il modo per tirarmi su. Io spero su ciò che vedo, spero in quello a cui credo. Basta una speranza in più, non è vero. Di lacrima versata per me vale zero. Io spero su ciò che vedo, spero in quello a cui credo. Basta una speranza in più, non è vero. Di lacrima versata per me vale zero. Ci sono circostanze dove non trovi l'appoggio, tra le mani di sostanze per trovare conforto. C'è chi crede a un sogno che non andrà mai in porto. Cosa serve sperare quando un piede è fuori dal bordo? E chi si affida alla fede allevia le pene. Eppure chi non ci crede ora prega che vada bene. Cosa dice al bimbo che chiede perché? Mamma è sola che piange, suo padre a casa non c'è. E sperare che ritorni sarebbe giocargli un bluff. E dirgli quello che è sarebbe impossibile. Ma meglio così, nella mia pelle restano segni indelebili. Sorry mamma, voglio sorprenderti. Un giorno tornerò a riprendervi. Fuori dei marciapiedi, palazzi più fetti. Di premi quel grilletto è solo modo per distruggermi. E la mia vita mi scorre come in un film. Dalla malancola speri non sia finita qui. La mente mi vola ma il corpo resta in stile. In testa un trip, confidi in G.O.D. Per tutti i D.O.G. dentro i miei vicolini. Criminality, ma street mentality. Ogni tattoo segna i giorni memorabili. E la speranza è negli occhi di questi uomini, credimi. Io spero su ciò che vedo, spero in quello a cui credo. Basta una speranza in più, non è vero. Di lacrima versata per me vale zero. Io spero su ciò che vedo, spero in quello a cui credo. Basta una speranza in più, non è vero. Di lacrima versata per me vale zero.